Mix 24 di Giovanni Minoli. Il faccia a faccia. Non vorrei sembrare monologo, ma questo concorso Cuore Toro rischia di non farsi. No, questo non ce lo devi dire. Non arrivano le cartoline, non arrivano le lettere, come si fa? Ma come si spiega questo fatto che a tutti scrivono? Diciamo la verità. A cani e sorci. Ci siamo organizzati a Scasazza, anzi a proposito mi dicono, mi fanno tanti complimenti, tanti auguri, dicono che lei è molto brava. Bravo. Brava persona. Ah, ecco. E il concorso abbiamo organizzati i premi, la quale leggo... Premi in paglia, vasto assorbimento di premi per il concorso Cuore Toro. Leggo. A. Quanti bei premi. Numero 1. Una Fiat 131 più una Fiat 126, totale Fiat 257. Premio numero 2. Un cancello. B. Un quadro astratto e un quadro concreto. C. Un divano letto e riletto. Bello. D. Una racchetta da tennis con giocatore incorporato. Questo è un esempio. Eccetera, eccetera. Allora, Nino Frassica. Giovanni. Nino Frassica. Complimenti per il programma. Ah, grazie. Senti, sono 30 anni da quelli della notte. 35. In questo preciso momento esatto, a quest'ora sta suonando il l'attimo. 30 anni. 35 puntate, 30 anni. Hanno fatto la rivoluzione. Oggi sarebbe ancora possibile? Ma penso di no, perché quel cambiamento là che diede Arbore lo ha già dato. Quindi oggi meravigliare, rinnovare, cambiare è difficile, perché con tutti sti canali che abbiamo, forse si è fatto tutto, dobbiamo tornare indietro. Senti, nel tuo libro, la mia autobiografia, 70% vera, 80% falsa. Dalla quale verrà fuori un libro, faremo un libro, un disco, una commedia, un profumo e un liquore verrà tratto dal mio libro. Si sta lavorando. E lì racconti che c'era un tuo amico che raccontava le barzellette alle feste, non faceva mai ridere. Poi le raccontavi tu, le stesse barzellette, e morivano tutti. Sì, ma c'è un segreto universale per far ridere. Per far ridere, secondo me, è spiazzare. Spiazzando, se ripeti qualcosa per la seconda volta non si ride più. Ma tu, quindi conviene spiazzare. Tu quando ti sei accorto che sapevi spiazzare? Ma perché facevo ridere al bar, perché per noia, mi annoiavo, allora non sapendo che fare, ero disoccupato, non trovavo lavoro ma non lo cercavo neanche, non lo trovavo e non lo cercavo, quindi ero coerente e quindi stando là al bar aspettando chissà che cosa, l'ozio mi portava a cazzeggiare, che è tipico della provincia, e quindi lì, siccome facevo ridere gratis, ho detto, e se io faccio studio sta cosa qua, la faccio diventare una professione. Ti è venuto il dubbio che poteva essere? Mi sono risposto sì, lo faccio. Ma ti sei mai trovato invece davanti a un pubblico che non rideva? Sì, certo, io avevo un, facevo un ma tuttora quando faccio uno spettacolo c'ho un test per testare, per capire dove posso arrivare con l'assurdo, dove certo. Devo fermare. Io per esempio mi ricordo facevo degli spettacoli di piazza, facevo ma mi ha chiamato Berlusconi, quando Berlusconi gestiva soltanto la televisione, ancora non faceva la politica, mi ha chiamato Berlusconi per parlare di televisione, perché mi voleva. Allora abbiamo parlato di soldi, abbiamo parlato di milioni, abbiamo parlato di miliardi. Poi alla fine non ci siamo messi d'accordo per 14.000 lire. Quando, se la gente, tu stai hai riso, certo. Se la gente diceva, vabbè, ma perché non accettavo 14.000 lire? Sono poi detto, allora, qua, andiamo sulla barzelletta. Per meglio la barzelletta sicura. Barzelletta. Senti, ma tu da bambino eri bello e felice oppure brutto e infelice? Insomma, come io ero bambino? Uno, come Pirandello, uno, nessuno, 200.000. 200. Io praticamente ero un moretto simpatico. Forse non allegrissimo, perché avevo problemi di famiglia, di salute di mio padre, non era allegrissimo, ma solo per questo, però poi quando per sfogarmi ero... Facevi ridere, ridevi. Senti, ma adesso appunto la tua biografia è 70% vero, 80% falsa. Qual è la cosa più falsa? La cosa più falsa è il titolo, perché io... In realtà è, la mia autobiografia è un pretesto per fare una cosa. Cioè, la Mondadori mi aveva chiesto di fare veramente la mia autobiografia, ma io non ho voluto accettare, non la faccio, perché la faccio tra... Guarda, c'è tempo. Da quando arriva a 60 anni la faccio. Sì, 60 anni, va bene, questo è il falso, l'80% falso. Senti, ma Renzo Arbore... Come ti ha scoperto? Cioè, è stato un amore a prima vista? Sono stato io che ho scoperto lui. Questo è stato, se ne parla nei libri. Ho visto sto ragazzo, faceva pubblicità della birra, della cosa, quasi quasi lo prendo. Abbiamo fatto questa trasmissione, allora quelli della notte hanno detto: tu fai l'autore, tu fai il regista, tu conduci, fai tutto tu, io mi siedo in un angolino e faccio. Vi vedete ancora? Sì. Ci sentiamo per... Più ci sentiamo che ci vediamo, però ci... Ma tra voi, tra quelli della notte indietro tutta, chi vince? Tra voi del cast? No, tre Renzo, voglio dire. Chi vince? Tra quelli della notte indietro tutta, così io, dice, allora, no, era più cosa, bello qua, era più cosa bello preferisco qua. Tra le due? Allora, quelli della notte, perché è il mio debutto, perché c'era però mi piace moltissimo quello che ho fatto come lavoro a Indietro Tutta, perché la facevo un'ora intera. Ma a me invece mi piaceva di più quelli della notte. Senti, Scasazza. Un anetto, era il 007 marzo 1555, mille in più, mille in meno, è uguale. Sani Gesualdi aveva un amico che si chiamava Enrico. Lui si confondeva perché non sapeva qual era il nome, qual era il cognome. Ma tanto se sbagliava era uguale. Bravo. E questo si è sposato con una donna che non era del paese suo, non era di Scasazza. Allora lui, dopo che si sposò, dopo 15 minuti, voleva il divorzio. Perché questo qua, Rico, lui prima aveva un successo nelle sue scienze. Non so se lei capisce questa parola, scienze. Lui aveva fatto un sacco di invenzioni. Numero uno, aveva inventato l'11 di coppe. Quando si gioca a scopa, le carte vanno da 1 a 10. No, lui, furbo, Enrico, quando ci sono le carte, per esempio, c'è 5 e 6, lui con l'11 fa scopa. Capito? Lui, tutta questa sua... Un inventore, questo. Un inventore. Grazie. Ah, pure lei ha capito. Pure lei. Si può concludere con... Non è bello ciò che è bello, ma che è bello. Ogni giorno la vita è una... Era il personaggio di Sani Gesualdi, da Scasazza. Quello com'è nato? Ma quello è nato, diciamo, come la scelta di fare il frate, forse è di Ugo Porcelli. Perché io ho una riunione... Grande produttore, coautore di Renzo. Io in una di quelle riunioni... Io ero produttore Rai, tanto per capire. No, perché sembra che... In una di quelle riunioni dove c'eri anche tu. Grazie. Io praticamente ero venuto così, con un maglione alto di Ferrena e i baffi degli anni 80, grossi, sti capelli così. E ho detto quasi, guarda, perché lo faresti un frate? Renzo ha detto, sì, caspita, non ci manca il personaggio, il religioso nel gruppo. Nel gruppo. Mi mancava... Io ho detto sì, super, ma qualsiasi cosa mi avesse detto. A fortuna, dicevi sì subito. Ma si diceva pompiere, sì. Io allora sono rientrato a Messina, mi sono messo davanti a una telecamera e ho riempito il nastro di un'ora e mezzo, ho parlato così, un delirio, parole a ruota libera, sono il frate. Dicendo e piano piano è venuto poi. Io così, in questo delirio dentro, poi io risentendo... La cassetta ho trovato, il concorso Cuore d'Oro, Scasazza, i premi. Vabbè, però tutto... intanto poi a te piaceva di più Indietro Tutta, l'hai detto. Allora senti il cacao. Potevamo avere come pubblicità il Mastici attacca dentiera. No! Potevamo avere il Pulisci Water. No! Potevamo avere il Callifuco. No! Potevamo avere il pannolino del Bimbo. Yeah! E allora? Più forte, più forte. E allora? Che cosa abbiamo noi? Abbiamo il cacao! Il 6, identi chi è quiz. A questo punto io cosa faccio? Io vado regolamento. Per questo gioco useremo foto, mano fatte, a colori, in bianco e nero, mono e stereo, negativi, positivi, riflessivi. Questo gioco è antichissimo, si praticava in vari periodi, avanti Cristo, dopo Cristo e in mezzo pure. Senti, in questi due programmi c'è stato anche un uso completamente nuovo delle donne in televisione, ironico, paradossale. Di più indietro tutto. Sì, indietro tutto, sì. No, no, a quelle della notte no, dico, le ragazze Cocodè. Ecco, ma tra le ragazze Cocodè e le veline di oggi, che differenza c'è? Ma diciamo, sono le figlie, sono come anagraficamente sono le figlie. No, ma come idea. Come proprio. Idea è, assomiglia, perché... era più divertente le ragazze Cocodè. Sì, beh, era più sviluppato. Là, qua adesso sono usate per fare gli stacchetti, per dare ritmo al parlato, invece di mettere solo il parlato. Poi fa, adesso le veline fanno solo le sigle. Senti, ma te, saper far ridere ti ha dato un potere con le donne o no? Ma lo sai che non l'ho capito. Certo, sicuramente la donna preferisce un uomo spiritoso a un uomo banale. Penso di sì. Sì, pensi di sì. Di però sì. Potere sì, ma famiglia no, una scelta. Vabbè... Ma mio figlio ti manca o no? Sì, mi manca. Ti manca? Ma una donna che ti facesse ridere ti conquisterebbe? Sì, certo. Apprezzo. È importante anche. Apprezzo. Però all'Accademia d'Arte Drammatica, alla Silvio D'Amico, non t'hanno preso. Non m'hanno preso. Perché? Un torto perché... loro? Sì, direi. Adesso no, perché si forse direbbe... non ero pronto, ma mi hanno fatto un favore. Sì. Non hai perso tempo. No, perché ho indirizzato la mia carriera, volevo fare l'attore, però l'ho dirottata verso cose che facevo meglio. Ma dimmi una cosa, la competizione sulla risata fra comici è feroce? Ah, sì. Se si fa lo stesso genere, sì. Se uno fa un genere totalmente diverso, allora no. Senti. Cioè io non ho mai... Gli imitatori, che fanno quelli che fanno molto ridere, così, non li trovo in competizione, perché fanno un'altra cosa, faccio un altro genere. Certo, buon compagno dice che la televisione di inchiesta è facile da fare, quella stupida è difficile, insomma è più facile far ridere che piangere. Questo è un famoso luogo comune, ma è anche vero, perché per far piangere basta mettere una disgrazia e la puoi ripetere ad oltranza. Per far ridere, se racconti una cosa e poi la barzelletta, e poi racconti la stessa barzelletta, non fai più ridere. Senti, ma un giorno poi è arrivato un regista Aldovini, che ti ha proposto di essere la spalla di Don Matteo. Sì. Ma era estate. Com'è andata? Era estate, mi ha chiamato, ha detto, noi avevo fatto dei film commerciali con lui, e mi ha detto... Senti, stiamo preparando una fiction con la Lux, ti passo Terence Hill. E io pensavo che non esistesse Terence Hill, pensavo fosse un fumetto, pensavo fosse una maschera, un disegno, un personaggio. E ha parlato, poi io in realtà non riconoscevo la voce, perché lui nei film western era... doppiato, poi subito mi ha colpito e mi è sempre piaciuto. Vabbè, poi è stato piaciuto. Un trionfo, un successo enorme, te lo aspettavi? Ma te lo aspettavi? No, è stato un successo veramente enorme, Don Matteo, non se l'aspettava nessuno, ma in realtà... Senti, tu dici, Terence Hill piace, Terence Hill ha un cuore grande come un panettone, se ti vuole offrire un caffè, affitta un bar, manda via tutti, ti fa scegliere il tavolo e si prende... con te il caffè. 70% vero, 80% falso? 75. Non si sa. Senti, ma non hai paura che... Mi piace tanto, pensa, nel libro ho scritto pure che io e che in radio non si vede, mi tolgo la giacca, la camicia, io me ne accorgo. Io ho la locandina di Altrimenti ci arrabbiamo tatuata sulla schiena, perché ero un grande ammiratore. Senti, ho letto nel tuo libro del pubblico di Don Matteo. Ascolto altissimo. Dimmi un po'. Ci sono proprio la pagina, ci sono i dati. Ecco, Don Matteo è un grandissimo successo di critica, di pubblico e di privato. Che ascolti questi dati a dati Auditel. 78,78% uomini di sesso maschile. 116,6%, quindi su 100 persone... 116,6 donne di sesso femminile vedono Don Matteo, 12% sesso misto, 4.000 indecisi, 100,75% bambini, sono tanti, 0,514 adulti, 15 adulteri, 22 militari, 6 nani, 100 monachelle, 6 musicisti, 2 tartarughe, 3 bottiglie di vino, 2 biglietti omaggio, grazie, arrivederci. Ma questi sono certo, proprio dati del dati audit, non si scappa su quello. Ma per un attore come te, è più interessante fare una fiction seriale come Don Matteo o girare un film? Ma sono due, come se mi piace più la carne o la pizza, sono due godurie diverse in realtà. Cioè? Sì, perché il film probabilmente che è migliore della fiction in quanto più curata, perché se un film non è curato è peggio della fiction. Se una fiction è molto curata, adesso le fiction si quando sono molto, molto curate sono uguali ai film. Vediamo quelle americane, ormai sono appunto, le serie americane. Dipende, dipende da come vengono confezionate, non è che c'è differenza. Senti, però ma, il piacere che trovo nella fiction, infatti adesso riprendiamo Don Matteo 10 a girare, è che non ti capiterà mai in un film, io faccio il maresciallo Cecchini, cioè come metto a fuoco, cioè lo puoi far crescere molto, lo modello, è un personaggio forse mai consegnato, perché ancora posso migliorarlo, trovare o trovare delle sfumature, è come un quadro non consegnato dove tu se vuoi gli do aggiusti la pennellata, ecco, adesso è maggiore la goduria. Senti, adesso sei diventato uno scrittore, ma sei anche un accanito lettore. Quanti libri riesci a leggere al mese? Io cosa leggi? Nel mese di gennaio ne ho letti 16. Allora ho letto Derattizzare Costa, Allevare Castori in casa, sono tutti libri. Tutto è possibile nella vita tranne sciare attraverso le porte rotanti, hanno provato diverse. Differenza tra Anas e Ananas, ci sono 600 pagine, un libro grandissimo. Poi c'è Come spostare i mobili di casa senza dare fastidio a quelli che abitano sotto. Quello è un libro importantissimo. Capita. Poi c'è Non si può avere tutto dalla vita. Io, per esempio, non sono mai stato a Pompei. Questo è il sottotitolo. Poi c'è Mi chiamo Mirabella. Da non confondere, mi chiamo Michele Mirabella, da non confondere con Giuliano Ferrara. È un libro di Michele Mirabella dove lui spiega frasi sporche da insegnare ai pappagalli, La garza ladra, che è la storia del traffico negli ospedali. La garza ladra, a gennaio è andata bene, diciamo. Perdere la pancia alla scala 40 e Delitto e castigo di Dostoevskij. A me mi fa più ridere questo Delitto e castigo. E questo è più comico di tutti. È fuori linea. Senti, tu dici che rubare le idee è uno dei reati più perfidi che ci sia e che lo puniresti con la pena di morte. 70% vero o 80% falso? No, 15 vero. 15, Ma tu? Ti hanno mai rubato idee? Ma a volte non lo so, se l'hanno copiato o può essere pure una coincidenza, perché a volte girano nell'aria le idee, volano, allora può darsi che qualcuno passi dalla stessa strada e si accorge di qualche cosa. Comunque se uno copia da tutti fa ricerca, se copia da uno solo è un plagio, quindi conviene copiare da tanti. Tutti. Tu hai copiato qualcosina di cui un po'... Sì. Io ho avuto come scuola Alto Gradimento, Marenco, moltissimo da Marenco, Coghe Renato, Andreasi, e anche il periodo degli anni, l'umorismo degli anni 40, del Bertoldo, che c'erano delle cose proprio demenziali, anche Petrolini che ancora cent'anni fa. C'è quel genere là, diciamo. Senti, ma c'è una battuta che hai sentito che hai detto porca miseria, questa avrei voluta inventarla io? No, mi piace una battuta di Pino Caruso, mio amico Pino Caruso, che ha detto a proposito dei critici cinematografici, ha detto: io non vado, io vado al cinema la sera, vedo il film, lo guardo, non piango, non rido, non faccio niente, lo guardo e basta. L'indomani mattina compro il giornale, leggo la critica e secondo quello che c'è scritto sulla critica dico: ah, ieri mi sono molto divertito, ieri ho pianto, ieri mi sono commosso. Questa è una roba fantastica, perché c'è qualcosa, è surreale, ma anche reale. Ma surreale c'ha bisogno di una base vera. Senti, ma tu guardi tanta televisione, soprattutto quella del pomeriggio, talk show, che cosa ti piace? Ma io sono proprio un Barbara D'Urso dipendente e La vita in diretta dipendente. Infatti io ho due televisori a quell'ora, uno su Rai 1, uno su Canale 5. Infatti 50-50 per me lo share non ha vantaggio, anche se sono figlio di mamma Rai, però non il pomeriggio. E io a quell'ora stiro, perché a quell'ora stiro, sistemo, lavo le tende, le cose, quindi accendo la televisione e vedo... E vedo quello che fanno. Se vuoi sapere cosa c'era ieri, c'era ospite VIP di pomeriggio 5. C'era Samantha De Grenet. Poi c'era Lori del Santo col suo nuovo fidanzato, un ragazzino di 16 anni. Poi c'era Patrizia Pellegrino, Giuseppe. Sai chi è Giuseppe? Non lo sai. No, non lo so. È un ex tronista di Uomini e Donne di 2010 che si è lasciato con Angela della Pupa il Secchione, che prima stava con Alessandro di Grande Fratello 3. Hai capito adesso? Adesso hai capito chi è? Ovvio. Poi c'era Carmen Russo, Enzo Paolo Turchi con la bambina, poi c'era Manuela Arcuri con tutto il cast, perché promuovono una nuova fiction di Canale 5 che si intitola La Vergogna e l'Imbarazzo. Poi ci sono ospiti non VIP. E c'è un drogato girato di spalle, poi c'è un drogato girato di lato e un drogato di fronte. Poi ci sono due fratellini, c'erano due fratellini che non si vedevano da 10 giorni. Poi c'era uno, un signore di Treviso, che ha perso tutto a tombola, si è rovinato a tombola. Poi c'è un ex prete, un ex cavallo, uno scippatore di vecchiette pentito, il quale... praticamente ha scippato per 15 anni, ha scippato, adesso si è pentito, va a cercare tutte le vecchiette, gli restituisce diciamo la borsa. Il mal tolto. È stato, poi ci sono stati 12 funerali e sei questi sono i talk show. Vale la pena, vale la pena. Tu il pomeriggio mentre stiri, che fai? Ma mi leggi la parte del tuo libro che ti fa più ridere? Ma sai che io a furia, allora, scrivendolo e leggendolo, la parte che ho letto di più non mi fa più ridere più niente, cioè ho perso l'obiettività se fa ridere o non fa ridere, ma io praticamente la parte che ho più letto e che quasi ho imparato a memoria è l'inizio, perché ricominci quando scrivi un libro, poi ricominci da capo, quindi la prima parte la sai, alla fine a volte sono cose che non mi ricordo. Allora leggo le prime, proprio l'inizio del coso. 11 dicembre 1950. Cuc, cuc, cuc, cuc, cuc, cuc, cuc, cuc, cuc, cuc, un grosso orologio a cucù batteva 12 colpi. Sono nato alle ore 12 esatte dell'11 dicembre del 1950. Ammazza che coincidenza, pensai, a mezzogiorno in punto. Davanti al mio lettino c'era il calendario di Maria Giovanna Elmi nuda. Bionda, bellissima. Il corpo era coperto da un albero di Natale, un nudo artistico religioso. Il nudo di allora era diverso dal nudo di oggi. Si vedevano solo petto e cosce. All'epoca i nudi femminili li facevano solo le donne, non come i calendari di oggi, dove i nudi femminili li fanno pure gli uomini, eccetera, eccetera. Senti, qui siamo a Radio 24, lo sai. Parliamo allora un po' di economia per chiudere. Ma tu adesso l'hai capito cos'è lo spread? No. Non, io scappo, io non sei capace a spiegarmelo. No, io scappo, non mi cioè ci tento, poi mi stanco e quindi scappo. E quindi non ti mancherà lo spread adesso che sta sparendo? No, non mi mancherà, perché scappo. Grazie. Prego. Sì, abbiamo chiuso. Vuoi che ballo così chiudiamo meglio? Meglio. Ballo. Ciao. Che meraviglia.